Salva Danaio di Deborah Rosciani. Benvenuti a Salva Danaio, buona giornata a tutti. Ieri, da Deborah Rosciani naturalmente, ieri una notizia ha movimentato abbastanza la seduta di Piazza Affari e ha attirato l'attenzione di molti piccoli investitori. Cosa è successo? Lo abbiamo raccontato per la verità poi nell'ambito di tutti i nostri giornali e radio, che il gruppo svizzero Swisscom ha formalizzato un'indiscrezione che circolava in borsa da almeno una settimana, ma forse da molto più tempo, cioè il lancio dell'offerta pubblica di acquisto su Fastweb, la società simbolo della banda larga della fibra ottica italiana, che passa dunque completamente in mano svizzera, perché Swisscom ne era già azionista di controllo dal maggio del 2007. Il prezzo proposto agli azionisti per rilevare le quote di minoranza in circolazione è di 18 euro e su questa notizia, su questa indicazione di prezzo, ieri il titolo ha fatto un balzo in borsa del 33,5%. Obiettivo degli svizzeri? Delistare il titolo e dunque nel giro di qualche settimana Fastweb dirà addio alla borsa. Tutto ciò ci ha stimolato a fare una trasmissione su questo tema, intanto per chiarire e spiegarvi i termini di questa operazione finanziaria, ma magari per spiegare che cosa significa un delisting, quali società sono state delistate recentemente dalla borsa italiana, quali è possibile che lo saranno a breve, che comunicazione devono ricevere i piccoli azionisti quando sono interessati ad operazioni straordinarie di questo tipo. Piccoli azionisti, molti dei quali peraltro saranno anche particolarmente arrabbiati, perché in molti avranno in carico titoli Fastweb a prezzi ben più alti rispetto a quello dell'offerta d'acquisto. Pensate che nel 2007 la prima offerta degli svizzeri fu fatta a 47 euro, ma ricordo anche qualche altro dato. La quotazione del gruppo nel 2000, si chiamava ancora Ibiscom, fu fatta a 166 euro. In quell'anno il titolo si spinse a 277 euro. Il prezzo dell'opa residuale è a 18, e quindi una storia sicuramente da ripercorrere, è molto interessante quella di Fastweb in borsa ed è seguita sempre con grande interesse. Poi abbiamo avuto in mezzo anche le vicende giudiziarie, ma insomma ci sarà modo stamattina di ripercorrere un po' tutto. Abbiamo reinterpellato per bella seconda volta in questa settimana la nostra Valeria Novellini, analista finanziario dell'Ufficio Studi del Sole 24 Ore. Valeria, ciao, bentornata. Buona giornata. Tra l'altro magari coglieremo anche l'occasione di parlare di quei casi problematici di borsa di cui lunedì non abbiamo soddisfatto tutte le curiosità dei nostri ascoltatori. Però il tema di stamattina è soprattutto il delisting, come si fa, quali sono le società interessate a Piazza Affari a operazioni recenti di questo tipo e quali potrebbero essere potenzialmente interessate. Ma ci faremo aiutare stamattina anche da Antonio Tognoli, un altro analista finanziario, vicepresidente di Integra SIM. Tognoli, buongiorno, bentornato da noi a Salva Danaio. Grazie, buongiorno, ciao Valeria. Infatti ciao, anche lei Antonio. Desiderava salutarla, eccoci qua, sono colleghi appunto nell'AIAF, nell'Associazione degli Analisti Finanziari del nostro paese. Allora, microfoni aperti a voi, agli ascoltatori, 800 24 00 24, e naturalmente per chi non volesse telefonare può scriverci al 349 238 6666. Prima di vedere la borsa di oggi però io vorrei subito scoraggiare le telefonate di questo tipo. Io ho l'abbonamento ad internet a Fastweb, ho l'abbonamento telefonico, l'abbonamento alla TV, che cosa mi succede? Valeria, togliamo subito ogni equivoco, sgombriamo subito il campo a qualsiasi preoccupazione di questo tipo, così come era avvenuto in occasione delle indagini per quanto riguarda presunti inadempimenti fiscali di Fastweb. Ah sì, perché ti avevo chiamato anche quella volta per aiutarci. Sì, esatto. A Salva Danaio, sì. Molti si preoccupano degli effetti non sul titolo azionario, ma chiaramente sui contratti telefonici. Naturalmente in questo caso non succede niente, Fastweb continuerà ad operare, non è certo ancora se manterrà il suo marchio o se assumerà quello della controllante Swisscom, ma agli effetti pratici non cambia nulla e la società continua ad operare con i contratti regolarmente. Tra l'altro questo italiano è un mercato che interessa molto agli svizzeri di Swisscom e ieri lo hanno ribadito abbastanza precisamente nel comunicato in cui hanno indicato i termini dell'offerta: vogliamo mantenere l'identità italiana dell'azienda. Detto questo, adesso nelle vicende di Fastweb ci addentreremo tra pochissimo, però la borsa di oggi, borsa che era partita male, gli indici erano tutti in calo di 0,5% stamattina. Dopo i rialzi di ieri c'è stata anche la pubblicazione, ricordiamolo, del Beige Book della Federal Reserve Reserve, che ha indicato che in America ci sono segnali di rallentamento della congiuntura, soprattutto nel settore manifatturiero e in quello bancario. Continua a destare preoccupazione anche il mercato del lavoro, preoccupazione ancora nel mercato immobiliare, però tutto sommato non sono stati espressi toni durissimi in questo rapporto, per cui il mercato americano ha chiuso bene e ha aiutato ieri anche l'Europa a chiudere bene. Stamattina partenza negativa, vi dicevo, e poi cambio di direzione. Adesso gli indici sono tutti di nuovo in rialzo. Più 0,6% a Parigi, più 0,47% a Francoforte, più 0,85% a Londra, più 0,64% Piazza Affari. Abbiamo Campari che guida i rialzi, più 2,51%, Fiat più 2,19%, il titolo è stato promosso insieme al settore dagli analisti di JP Morgan, Buzzi Unicem più 2,12%, Luxottica più 1,79%, Parmalat più 1,59%, STM più 1,55%, Prismian più 1,54%. Vedrei cosa succede anche in casa Unicredit, con tutta la tensione che c'è per questa presenza ingombrante dei soci libici. Unicredit stamattina guadagna lo 0,7%, in calo Telecom, visto che poi tra l'altro di telecomunicazioni parleremo, vi comunico che Telecom è il peggior titolo di Milano, perde lo 0,5%, Tenaris meno 0,4%, Atlantia più 0,07%, quindi due soli titoli negativi in questo momento sul principale paniere di Piazza Affari. L'euro riconquista 1,27 sul dollaro, lo yen continua a correre, l'euro sullo yen è a 106,40 in questo momento, mantiene i suoi livelli massimi da 15 anni sul dollaro, per cui è ancora tempo di monitorare attentamente anche il mercato valutario. Lasciamo la borsa di oggi, oggi a Salvadanaio ripercorriamo le vicende Fastweb. Fastweb si prepara a dare l'addio a Piazza Affari. Le indiscrezioni circolavano da tempo e ieri è arrivata la conferma ufficiale. La controllante svizzera Swisscom ha lanciato un'offerta pubblica di acquisto residuale sul 18% della compagnia italiana. L'annuncio ha fatto schizzare il titolo Fastweb in borsa, dove, mettendo a segno un rialzo superiore al 30%, si è portato vicino a quota 18 euro, prezzo offerto da Swisscom agli azionisti di minoranza. L'operazione, subordinata al raggiungimento di una soglia di almeno il 95% del capitale di Fastweb, comporterà dunque anche la revoca del titolo dalla quotazione in borsa. Ed è stata sempre un'ipotesi di OPA a spingere in questi giorni anche gli acquisti su Dada. Secondo indiscrezioni, infatti, l'azionista di controllo RCS potrebbe lanciare un'offerta sulla società leader nel settore dell'intrattenimento via web e cellulare per poi ritirarla dal listino. Si riaccende dunque anche a Piazza Affari la febbre da operazioni straordinarie, incentivata dal fatto che, complice la crisi, sono numerose le società che trattano a sconto. 800 24 00 24, il numero verde per le vostre chiamate, per le vostre osservazioni telefoniche, oppure scriveteci, e già vedo piuttosto numerosi messaggi che stanno arrivando, molti anche polemici, non ci aspettavamo niente di diverso, al 349 238 6666. Maurizio da Trieste chiede: esiste ancora il reato, punto di domanda, chissà se si riferisca all'insider trading, all'aggiotaggio o a che cosa, se qualcuno compra a 13 tre giorni prima, poi tre giorni dopo vende a 18, Fastweb indagherà qualcuno? Allora non capisco bene l'osservazione, poi forse lui dice, insomma, già questo titolo intende, Valeria aiutami tu, aveva cominciato a correre da qualche giorno, ma insomma capita sempre così. D'altronde questa storia del delisting e di una possibile offerta residuale di Fastweb non è proprio una novità che, come dire, arriva, piove come così, come se non ci se l'aspettasse per niente. In realtà, allora, diciamo che Fastweb è un tormentone, nel senso che da subito non è un fulmine a ciel sereno, volevo dire, ecco, no, perché non mi arrivava, non mi veniva la parola. È un tormentone nel senso che da quando Swisscom ha raggiunto con la sua OPA appunto l'82% del capitale sociale, era ovvio che, essendo molto limitato e flottante, ci si chiedesse se poi la società controllante avrebbe voluto ritirarla dal listino. Costantemente per anni ha detto che non era opportuno, che intendeva mantenerla quotata, e ancora il 2 settembre scorso aveva detto che non era una cosa che si poteva escludere, però ci stavano ancora pensando, per poi invece in realtà formalizzare la loro offerta pochi giorni dopo. Quello che intendeva dire l'ascoltatore probabilmente è il reato di insider trading, ma è difficilissimo da dimostrare. Quello però che possiamo verificare e che si è avuto nella stragrande parte dei titoli su cui poi è stata lanciata un'OPA per il delisting è che in genere 20-30 giorni prima si osservano, si iniziano a osservare dei movimenti forti sul titolo, per cui però ovviamente, siccome questo può avvenire anche per altri tipi di annunci, la cosa non è sempre così. Diciamo che è più sospetto l'incremento forte di volumi su dei titoli se sono titoli con poco flottante. Su questi è più probabile che effettivamente venga lanciata un'OPA. Allora, il prezzo di 18 euro, Antonio Tognoli, arrivo da lei. Io chiaro, immagino possa essere considerato del tutto insoddisfacente per chi ha questo titolo in carico a prezzi ben superiori, che sono quei livelli sui quali era abituato a viaggiare, non dico tanto all'epoca dei fasti della New Economy, perché ricordiamo si è quotata a 160 euro, nel giro di pochi mesi si è spinta ad oltre 270, però insomma voi analisti che studiate effettivamente la congruenza dei prezzi dei titoli quotati delle società quotate, 18 euro è un buon prezzo secondo lei? Anche i più insoddisfatti azionisti di minoranza possono ritenersi soddisfatti? A mio avviso non è che esiste un prezzo buono e un prezzo cattivo, esiste un prezzo in termini relativi considerato a che cosa io paragono l'attività che voglio fare l'OPA, in questo caso a che cosa paragono Fastweb. Mediamente 18 euro vuol dire circa 5 volte l'EBITDA, che bene o male è largo circa l'EBITDA medio al quale trattano le società comparabili con Fastweb attualmente. Ci spiega Tognoli che cos'è l'EBITDA, tanto per chiari allora, con mia zia che ci ascolta dalle Marche, ecco. Certo, l'EBITDA non è altro che l'utile operativo lordo, detto in estrema sintesi, il fatturato meno i costi operativi, diciamo il primo margine lordo. Il primo margine, sì. Esatto, questo vuol dire che mediamente le società che fanno quello che fa Fastweb vengono pagate 5 volte questo EBITDA, vale a dire che se l'EBITDA è 1 vengono pagate 5, quindi 5 volte. Diviso il numero di azioni arriviamo al prezzo, al valore per azione al quale Swisscom in questo caso lancia l'OPA. Quindi, ripeto, non è che esiste un prezzo buono o un prezzo cattivo, esiste un prezzo relativo funzione di quanto in questo momento società analoghe vengono pagate sul mercato. Di fatto è una, come dire, buona operazione, molto conveniente per la stessa Swisscom, che ricordiamo aveva fatto l'OPA più importante nel maggio del 2007 pagandola 47 euro se non ricordo, e stamattina anche il collega del Sole 24 Ore Simone Filippetti osservava come magari prendersi il resto del capitale in circolazione a 18 euro equivalga ad abbassare il valore medio di carico e a portarsi in casa tutta l'azienda ad un costo molto conveniente, Tognoli. Questo senz'altro, tieni presente che in ogni caso, cioè i casi sono due, o aveva pagato molto 47 quando l'ha comprata, però adesso se la vedeva 12 e la porta via 18, ma in ogni caso bisogna capire qual è il suo prezzo medio, oppure la sta pagando poco adesso, cioè i casi sono due, secondo me anche a 18 euro, ma come a 12 o 13 quello che era in borsa, il valore, il prezzo valeva anche per Swisscom, quindi Swisscom che ha comprato 97 se la vedeva 12 o comunque se la vede 18, chiaro che è diverso, è il caso in cui io ho 1000 azioni o quella o Swisscom che ne ha al 100%, questo è ovvio, no? Certo. Però ripeto, non è che posso, allora posso anche dire va bene, allora io ho comprato il titolo XY a 50 euro, adesso quota 20 e sì, vabbè, sono sotto, è vero, non me lo delistano la prospettiva che salga, ma quando? E infatti. Quindi per quello va visto tutto in termini relativi. Posso anche non consegnare i titoli in OPA, no? Ecco, esatto. Allora lasciamo aperta questa parentesi al momento perché c'è già qualche ascoltatore che effettivamente lo chiede, ma intanto qualcuno ci dice cosa devo fare materialmente per aderire all'OPA. Adesso Paolo gliela spieghiamo, ma la banca, l'intermediario presso la quale ha acquistato i titoli, le farà sapere tutte le technicality del caso. Ci sono altri ascoltatori, cara Valeria, te lo anticipo già, poi magari li accontenteremo, che chiedono, allora dateci qualche indicazione, quali sono i titoli che secondo voi trattano a sconto e quindi insomma sulle quali possiamo mettere magari le mani per fare un piccolo investimento. 800 24 00 24, il tema di oggi è Fastweb, il numero per le vostre domande. Ci sentiamo tra pochissimo. Eccoci ritrovati in diretta. Questa mattina stiamo analizzando il caso Fastweb, perché ieri gli azionisti di riferimento, gli svizzeri di Swisscom, hanno formalizzato il lancio di un'offerta pubblica di acquisto sulle quote di minoranza del gruppo. E vabbè, adesso sono tutti termini finanziari. Di fatto, entro qualche settimana, questa nostra, come dire, l'emblema della fibra ottica in Italia, della banda larga, questo gioiellino delle telecomunicazioni del nostro paese, pur con tutte le difficoltà anche finanziarie e non ultime quelle giudiziarie che ha vissuto, di fatto fra qualche settimana non la vedremo più quotata a Piazza Affari. Per qualcuno un peccato, per qualcuno dice insomma era ora, le considerazioni passano da un estremo ad un altro. Di fatto stamattina quello che stiamo cercando di fare è capire un po' poi tecnicamente, quando arriva un'operazione straordinaria di questo tipo sul mercato, cosa succede per i piccoli risparmiatori, per i piccoli azionisti. Allora sentiamo subito la domanda di Renato da Genova. Buongiorno. Sì, buongiorno, io sono un piccolo azionista e ho delle azioni Fastweb, naturalmente a un prezzo superiore a quello dell'OPA. Uh-huh. Vorrei sapere, nel caso in cui non partecipassi all'OPA, che cosa succede di queste azioni? Grazie Renato. Allora, sì, è una domanda che si fanno in molti. Valeria, beh, di fatto si diventa azionisti di una società non quotata. Allora, precisiamo una cosa. Innanzitutto dipende Valeria da, Novellini, non ho ricordato il tuo. Dipende da quante persone aderiranno a questa offerta, perché ci sono stati alcuni casi in cui si riteneva che il prezzo offerto fosse basso, quindi molti, in realtà più che piccoli azionisti, anche fondi, non hanno aderito a queste offerte e, non avendo raggiunto la quota per il delisting, cioè il 95% del capitale sociale, ci sono stati anche casi in cui è stato elevato il prezzo di offerta. Precisiamo che questi casi non sono molto numerosi e precisiamo anche appunto che nel caso in cui però ci fossero queste adesioni e si arrivasse poi all'effettivo delisting, non solo ci si trova con una società non quotata, ma a volte in realtà la società offerente offre comunque la possibilità di riacquistare le azioni con il cosiddetto diritto di recesso, perché spesso queste società riacquistate vengono fuse con la controllante. Certo. Esatto. Ipotesi che peraltro per Fastweb mi pare sia già stata anche fatta, non è detto che non possa esserci questa evoluzione in futuro. Diciamo anzi che è molto probabile, semplicemente per il fatto che Swisscom Italia, cioè la controllante che a sua volta è controllata dalla Swisscom Svizzera, è di fatto legata a doppio filo a Fastweb, tanto è vero che Fastweb attualmente tutto l'indebitamento che ha ce l'ha nei confronti della controllante Swisscom Italia, avendo a suo tempo chiuso i rapporti bancari perché meno convenienti. Quindi è questa un'eventualità. Però ecco, per tornare alla domanda dell'ascoltatore, quando viene riconosciuto il diritto di recesso, nella migliore delle ipotesi viene di nuovo offerto il prezzo dell'OPA, non viene comunque offerto di un più. Un premio aggiuntivo, certo. Attualmente Swisscom, Antonio Tognoli, torno da lei, ha l'82% e quindi proprio il controllo del gruppo, deve comprarsi il capitale residuo che è pari a monte al 17,9%. Questo capitale residuo non era stato raggiunto all'epoca nel maggio del 2007 perché è probabile che ci fosse uno zoccolo duro di non aderenti al passaggio di proprietà sostanzialmente, quindi potrebbe mettere in difficoltà secondo lei questa offerta d'acquisto adesso, questo capitale, questo flottante residuo, questo flottante sul mercato? Ma in realtà loro stessi dicono che se non viene raggiunto il 95% si riservano di decidere se dar corso all'OPA o meno. Anche qualora venga raggiunto, supponiamo andiamo al 96, delistano il titolo, sicuramente probabilmente arriveranno a un'OPA residuale, si chiama in questo caso, ma quindi per il rimanente 4%. Non era già questa è un'OPA sulle quote di minoranza, non è residuale? No, questa è una nuova OPA in realtà, però OPA residuale non è detto, viene offerto un prezzo superiore rispetto ai 18, ma non si sa di quanto, potrebbe essere 18,01 euro. Esatto, sì. È superiore, ma c'è l'incertezza, uno, dell'OPA residuale, due, della tempistica. No? Quindi Questo sicuramente, oltre ad avere un titolo che in realtà sì, continua a essere magari quotato, ma sia un prezzo, ma che assolutamente non è significativo. Quindi... E insomma, magari, come in questo caso lo sottolineava un'altra collega del Sole 24 Ore questa mattina, Antonella Olivieri, è possibile che chi non volesse aderire a questa offerta potrebbe ritrovarsi di fatto in mano con titoli poi non facilmente negoziabili. Un altro aspetto sul quale il Sole si sofferma questa mattina è quello dello, come dire, chiamiamo scandalo finanziario, dell'inchiesta giudiziaria che è in corso, che riguarda Fastweb, che ha fatto fare un passo indietro l'amministratore delegato Parisi, che ha portato in carcere Silvio Scaglia, il fondatore del gruppo 10 anni fa, insieme a Francesco Micheli. La società all'epoca, lo ricordiamo ancora, si chiamava Ibiscom. Di fatto in molti sostengono che questa operazione di Swisscom di portare al delisting Fastweb sia proprio riconducibile anche alle pendenze giudiziarie, in sostanza è un po' come voler arginare i rischi di pubblicità negativa che la visibilità di una società quotata comporta. Questo dice testualmente stamattina Antonella Olivieri sul Sole 24 Ore. Tognoli, che ne pensa? Potrebbe anche essere una delle motivazioni che insieme ad altre ha condotto Swisscom a lanciare l'OPA, questo potrebbe anche essere, visto che sicuramente per una società che opera nel settore retail, quindi che opera con noi privati, una pubblicità negativa sicuramente non fa bene, per cui insomma, si spengono un po' di riflettori, potrebbe essere una delle motivazioni, sicuramente non la sola. Secondo lei invece, come analisti, come ha valutato un altro aspetto? Di fatto avremo adesso praticamente solo Telecom nel settore delle telecomunicazioni quotata a Piazza Affari, una minima rappresentanza nel settore internet con Tiscali. Non è un peccato che un'azienda così bellina, come la definirebbe Valeria Novellini, scompaia dalla nostra borsa? Sì, tendenzialmente secondo me quando comunque vengono tolte delle aziende dal listino è come dire una perdita per l'intero paese, perché già abbiamo poche società rispetto agli altri paesi europei, siamo comunque la quinta potenza economica al mondo, ma in termini di società quotate siamo veramente agli ultimi posti, non solo, ma in termini rappresentativi di settore, e ovviamente non sto parlando solo delle big tipo Fastweb, ma delle piccole e medie imprese, siamo assolutamente non rappresentati, quindi comunque quando tolgono società del listino, dal listino è diciamo una perdita secondo me per l'intero paese. Valeria, allora quali altre società sono a rischio o in un'ottica di delisting a Piazza Affari? Ma diciamo che il rischio purtroppo è difficile da prevedere, nel senso che per quanto riguarda Fastweb il rischio esisteva proprio perché si sapeva già dall'inizio che Swisscom aveva ritirato gran parte del capitale sociale dal mercato, non aveva interesse al momento a ritirare tutto il capitale sociale, ma comunque il flottante era rimasto basso. Ecco, di società col flottante basso ce ne sono tante, grandi e piccole in Italia, anche questo è un difetto del nostro mercato, però il problema è che non è detto che l'azionista di maggioranza decida di delistarle. Tanto per dare una definizione molto basilare ai nostri ascoltatori, il flottante è proprio il numero delle azioni in circolazione, quindi la quota del capitale della società che si decide di collocare in borsa. È praticamente la quota di capitale sociale che non è detenuta dagli azionisti di riferimento. Ed è per questo motivo che se viene lanciata un'offerta pubblica di acquisto per il delisting su una società che ha tanto flottante, quindi ci sono tante azioni in circolazione al pubblico, è più probabile che si riesca a ottenere un rialzo nel prezzo dell'offerta, perché siccome ce ne sono tante nel pubblico è probabile che molti possano dire di no, quindi se ci sono poche adesioni poi si può avere, se sono poche purtroppo anche nel caso di poche adesioni rimangono pochissimi titoli sul mercato, per cui di fatto il delisting è quasi automatico. Questo però è un po' più vero, non lo so Valeria, poi magari non è la mia osservazione corretta, per le cosiddette OPA ostili, se un'offerta pubblica di acquisto ha la caratteristica di essere, come dire, amichevole, allora magari le possibilità di successo sono chiaramente diverse. Ma non dipende, perché nel caso di OPA ostili spesso più che altro si spera nell'arrivo di qualche altro offerente, cioè un'altra persona, investitore istituzionale, che lanci un'offerta concorrente a un prezzo più alto. In Italia di fatto casi come questi praticamente non ce ne sono stati. Le offerte pubbliche di acquisto che ci sono state da noi sono state quasi tutte volontarie, ed è per questo che è difficile prevederle, nel senso che non si può diciamo andare andare a interpretare la volontà degli azionisti di maggioranza. Allora, dicevamo prima che era il caso di dare qualche indicazione pratica su cosa si deve fare, se lo si vuole fare, per aderire all'offerta pubblica di acquisto. Direi che possiamo spiegarlo, se siamo pronti, Fabio, dopo i suggerimenti per chi è in viaggio. Sì, allora aspettiamo solamente poco. 800 24 00 24, torno a ricordarvi il numero verde per le vostre domande tra pochissimo. Allora, sì, Valeria sta tentando di spiegarmi delle cose, zuccona come sono, anche a microfoni spenti, ci prova in tutti i modi, con scarso successo purtroppo qualche volta. Allora, dicevamo, Antonio Tognoli, vicepresidente di Integrasim, stamattina ci ha aiutato a capire intanto come funzionerà l'operazione Swisscom su Fastweb, ma poi in termini generali come funziona anche da parte dei piccoli azionisti, quelli ai quali molto spesso le comunicazioni arrivano con ritardo perché non si leggono sempre i giornali finanziari e per tanti altri problemi. Insomma, come si fa ad aderire a un'offerta pubblica di acquisto? Ce lo chiede un ascoltatore. Se si è comprato un titolo in banca, credo che banalmente la banca abbia proprio un obbligo di comunicazione agli azionisti. Tognoli. Sì, la banca ha l'obbligo di comunicazione, quindi deve comunicare entro strettissimo giro di posta, quindi arriverà una lettera, i termini dell'OPA e l'operazione, quindi il prezzo e quant'altro, e anche le istruzioni che il correntista, l'azionista deve fare se vuole aderire all'OPA o se non vuole aderire all'OPA. Cioè, quindi devono esserci chiaramente spiegate, certo, conseguenze della prima scelta o della seconda scelta. Peraltro non sono state ancora definite chiaramente le date nelle quali si svolgerà l'offerta d'acquisto, perché si attende il via libera della Consob anche ai termini dell'offerta, Tognoli, se non ho capito male. Sì, questo sì, ovviamente dopo che Consob avrà definito i termini, i termini. Le date dell'offerta, chiaramente la banca solo a seguito di questo manderà le comunicazioni, anche perché ci sono dei tempi tecnici per la banca, proprio per mettere fisicamente nel terminale l'adesione o la non adesione. Comunque, insomma, mi pare che molti quotidiani questa mattina avanzino l'ipotesi temporale della partenza a metà ottobre dell'operazione per farla concludere poi a metà novembre, quindi un mese di tempo. Allora, abbiamo detto prima, Valeria Novellini, le società e le motivazioni per le quali si delistano, ma quali sono stati i delisting del 2010? Dunque, nel 2010 ci sono stati relativamente pochi delisting, cioè in pratica quello di Permastelisa, per cui però l'OPA per il delisting era iniziata a fine del 2009, e poi abbiamo avuto Buti Healthcare. Per quanto riguarda il caso Sorin, aspetta un attimo allora, che già mi hai anticipato, perché te l'ho detto a microfoni spenti, c'è la domanda di Gianni dalla provincia di Torino, così te la faccio fare precisamente, vediamo se riusciamo a rispondergli altrettanto precisamente. Gianni, buongiorno. Buongiorno. Ci dica. Siccome sentivo che parlavate di OPA, e qualche mese fa parlavano di OPA sulla Sorin, e io ho qualche azione Sorin e volevo avere notizie. Siccome non ci sa più niente. Sì, infatti, sentiamo un po'. Valeria. L'OPA c'è stata. L'OPA c'è stata a inizio 2010, a cavallo fra 2009 e 2010, al prezzo di 0,757 euro per azione. Attenzione, qui dobbiamo distinguere due cose. L'offerta di cui stiamo parlando oggi, cioè Fastweb, come la maggioranza di queste offerte, è volontaria. Cioè si tratta di soggetti che per loro volontà decidono di ritirare il titolo dal listino, e normalmente sono già gli azionisti di maggioranza. Quella di Sorin, come altre offerte di questo tipo, sono offerte obbligatorie, nel senso che la società rileva da un altro soggetto la quota azionaria di maggioranza o maggioranza relativa, basta che superi il 30% per la legge, ed è poi tenuta a lanciare un'offerta pubblica di acquisto sulla rimanente diciamo parte del capitale sociale. Però queste offerte non sono finalizzate al delisting, tant'è vero che Sorin comunque è ancora quotata. D'altra parte, l'azionista che ha lanciato questa offerta dopo il termine dell'OPA deteneva e detiene circa il 38%, quindi esiste chiaramente ancora un ampio flottante. Ma io ho una ricostruzione differente da parte di una società di analisi, poi magari su Sorin possiamo riaprire un capitolo se, ritiene, se, se lo riteniamo necessario. Poi te lo leggo, Valeria, poi magari ci confrontiamo insieme, perché c'è un report di Equitasim, quindi di un'altra società di intermediazione che sicuramente conosci molto bene, che dice che dopo Fastweb non sono escluse altre possibili offerte d'acquisto, e pone proprio l'attenzione su Sorin. La società opera in un settore molto attivo sul fronte non mi ricordo, non leggo bene che cosa, biomedicale, sì, esatto. Alcuni fondi di private equity e altri investitori l'hanno messa sotto osservazione in vista del lancio di un'offerta. Si è parlato di recente di un interesse di Essex Woodlands, di una società di private equity, da parte di Intesa San Paolo e da parte insomma questi soggetti che in passato avevano già avviato una due diligence su Sorin, un'opa che però non fu lanciata in quanto non fu possibile trovare un accordo sulla proporzione di quote del capitale fra vecchi azionisti e nuovi soci. Ti risulta? E difatti non fu lanciata, questo è il fatto. Quella che è stata lanciata era obbligatoria per un azionista che effettivamente ha rilevato una quota significativa del capitale. Io mi chiedo come un piccolo azionista di queste aziende possa, come dire, venirne a capo, no? Di tutte queste faccende finanziarie nelle quali è difficilissimo barcamenarsi. Difficile è venirne a capo, però diciamo che dal punto di vista del piccolo azionista l'importante è detenere una società che presenta dei buoni risultati di bilancio. Dopodiché chiaramente normalmente viene anche valorizzata dal mercato, e se anche per caso venisse ritirata dal listino, spesso comunque viene ritirata a prezzi che esprimono il valore del titolo. Questo non sempre accade, però è l'unica opportunità. Tognoli, la metto in difficoltà se ci aiuta, se ci dà un conforto su Sorin. Ma è difficile, in termini economici, su come sta andando la società, ovviamente non è facilissimo dirlo. No, ma comunque mi pare che sia sotto OPA adesso, no. No, assolutamente no, no. Sono rumors che si ricorrono, che si, voglio dire, normalmente no, ma di mese in mese ogni tanto esce qualche rumors, non solo su Sorin ma su società particolari, però sono rumors e ovviamente corre dietro ai rumors, uno ci può guadagnare tanto ma ci può perdere anche tanto, quindi insomma il solito discorso rischio rendimento. Si può dire qualcosa a proposito di questa vicenda pure piuttosto controversa, Valeria Novellini, su Gevis? Ecco, Gevis è un caso di mancato delisting, nel senso che è stata lanciata effettivamente un'OPA nel 2010, OPA che però non ha raggiunto il quorum del 95% del capitale sociale, essenzialmente per la mancata adesione di un fondo di investimento, il fondo First Eagle, che però non aveva mai comunicato né l'intenzione di aderire né l'intenzione di non aderire, quindi la cosa ha sorpreso un po' il mercato e probabilmente anche l'azionista di riferimento. Su questa OPA ci sono state parecchie polemiche, nel senso che un altro fondo di investimento, Nextam, ha mandato una lettera proprio all'azionista di riferimento di Gevis per criticare la scelta di delistare il titolo e il prezzo di offerta. Al di là delle decisioni del prezzo di offerta, che comunque aveva un premio rispetto alle quotazioni che in quel momento il titolo esprimeva, il problema è purtroppo che negli ultimi anni di questi delisting di titoli che in realtà presentavano dei risultati di bilancio sostanzialmente positivi, purtroppo ce ne sono stati altri. Recentemente ci sono stati RGI, che era quotato al mercato Expandi e Mirato, e ovviamente queste sono decisioni che vengono prese da azionisti che detengono già una quota elevata del titolo. Gevis, che succederà? Ecco, ora diciamo purtroppo a questo punto forse per il fondo First Eagle, ma è probabile che venga decisa magari la fusione con una società non quotata e venga comunque ovviamente garantito il diritto di recesso. Queste eventualità non sono state escluse dalla proprietà di Gevis, però naturalmente diciamo che in queste operazioni spesso viene tirato in ballo la motivazione che il titolo viene ritirato dal listino per perseguire nuove opportunità e per il fatto che vengono lanciati piani che nel momento il mercato non potrebbe capire perché comportano pesanti esborsi finanziari, questo però purtroppo vuol dire che evidentemente non si ritiene il mercato in grado di valutare anche delle operazioni che hanno effetto nel medio termine. E insomma, speriamo di aver dato un'indicazione abbastanza chiara ai nostri ascoltatori su tutto le questioni a cui dobbiamo porre una forte attenzione quando si sceglie la società sulla quale investire, optando appunto per il mercato azionario. Si deve guardare ovviamente il contesto in cui opera, il settore, la condizione macroeconomica generale e soprattutto non ci dimentichiamo anche di tenere sotto osservazione anche le microscopiche notizie sui giornali se interessano queste aziende, perché magari nascondono invece prospettive molto differenti per il valore della quotazione. Tognoli, chiudo con lei un'ultima raccomandazione a chi ci ascolta, se teme di avere in possesso, in portafoglio, una società o a rischio o in prospettiva di delisting, insomma, come dobbiamo monitorare sempre il nostro investimento in borsa, anche alla luce di queste possibilità? Rispetto ai prezzi attuali, se uno teme di avere in portafoglio titoli di società che possono essere delistate, abbiamo visto che rispetto ai prezzi di borsa normalmente vengono offerti dei premi, non dimentichiamo che per le OPE totalitarie c'è una normativa precisa, per cui se uno dice ho a rischio i titoli di OPA, me li vendo, allora il consiglio è tieneteli, perché tanto comunque te li porteranno via ad un prezzo superiore, no? Infatti. Poi se uno dice compro qualcos'altro, allora il discorso cambia. Però insomma l'idea è, se comprate una società in borsa, non tenetela lì come se ve ne dimenticaste, ma tenete sotto controllo, insomma, come gestite il vostro portafoglio sul mercato azionario. Grazie ad Antonio Tognoli, a Valeria Novellini per essere stati con noi, grazie a Gaia Romani per la collaborazione in redazione, Fabio Cantadori in assistenza tecnica, da Deborah Rosciani buona giornata. Noi domani affronteremo un tema che pure oggi è su tutte le pagine di tutti i giornali, la ripresa delle compravendite di case. A domani, buona giornata.